Aliens sulla mia schiena, questo è il mio omaggio. Da vent'anni sulla scena l'hip hop è come un tatuaggio. Vive per sempre, non è una moda di passaggio, è la passione che muove tutto l'ingranaggio. Come Dafa spesso ci riesco, scrivo rime d'altra classe. Come Bassi prendo parti a trame troppo spesse. Come Esa dispenso il fang come se piovesse. Come Caos sono stacker come fossero MS. Come Danno né principi né principesse. Come Masito ricordi lascio le immagini impresse. Come Tormento scivolo tra strade mai le stesse. Mi presento, sono la N e la doppia S. Non sai chi sono, chiedo permesso ed entro. Parte tutto dal cuore, questo l'epicentro. È l'amore per l'hip hop, quello per il confronto. Ho rime soddisfatte, ho rimborsate, non cercare scontro. Non cercare scuse, evita lo scontro. Anche se ci sono i saldi, per quelli come te, questo è solo l'intro. Per quelli come te, questo è solo l'intro.